piaceva andare, di notte ogni estate mi fa il mare camminare, poi fermarmi ogni tanto lì e pensare a cose inutili. A come è grande il mare, a che distanza c'è tra qua e là, così strano il mondo e com'era strano esserci. Confondermi e perdermi sotto quel cielo e a tutte le stelle. Perdermi, riperdermi lontano da ogni cosa su una stella luminosa. Non essere, non esser mai nemmeno nato, un punto solo, il più piccolo che c'è. Adesso sei con me, come mi sento io qui davanti a te. Ancora più confuso per averti qui vicino a me, come se avessi 16 anni. Per questo cederò ad ogni cosa, tutto quello che dirà, ad ogni spostamento che avrai, perché voglio vederti stare bene, bene.